con Giuseppe Gatti, autore e performer dello spettacolo Giorgio, che sarà a Roma al Teatro Studio 1 dal 7 al 10 marzo 2019. Giuseppe, ben trovato. Ciao, ciao a tutti. Ci racconti di questo lavoro? Sì, il lavoro ormai è al suo terzo anno di messa in scena e racconta il rapporto con mio papà, che è venuto a mancare ormai 10 anni fa, e con la nostra compagnia stiamo con questo spettacolo mostrando, insomma, qual è il nostro stile performativo, che unisce appunto il teatro con la danza e anche l'utilizzo dei media. E in particolare in questo spettacolo facciamo tutta una carrellata di media tecnologici degli anni 80, 90 e 2000 per raccontare appunto una storia personale, ma che si trasforma mano a mano che lo spettacolo si svolge in una storia collettiva e generazionale. E insomma, in questi anni abbiamo raccolto non poche soddisfazioni con questo spettacolo proprio perché il pubblico poi al termine della messa in scena riusciva a identificarsi e riusciva a rispecchiarsi, anche se la storia, appunto, come ripeto, è molto personale, è molto calata nello specifico in una realtà di provincia che è quella di Terni, che è la città dove sono nato e cresciuto. E con questo spettacolo, appunto, abbiamo vinto due premi al Fringe del 2017 e il Festival Inventaria, che poi ci ha permesso di realizzare una piccola tournée che inizieremo appunto con questi giorni dal 7 al 10 marzo allo Studio 1, per poi spostarci a Messina, in Calabria, a Bologna, Napoli e Prato. Com'era nato questo spettacolo? Ecco, questo spettacolo, diciamo, è nato da un'esigenza e diciamo, è come credo sia giusto fare, il teatro deve nascere per forza da un'urgenza, da un'esigenza forte. 3 anni fa ero a Berlino per fare una ricerca per il mio dottorato. A un certo punto ho deciso di mettere nero su bianco alcuni pensieri, alcuni ricordi di mio papà. Ne è nato una sorta di monologo che poi insieme a Laura Garofoli abbiamo iniziato ad allestire, a mettere in scena, anche perché io vengo dalla danza di strada, quindi non avevo mai fatto un lavoro che implicasse anche l'uso della parola. Per cui, continuando a sperimentare e anche avvalendoci della collaborazione di Claudio Salvatore e di Andrea Simonetti per le scenografie, siamo riusciti a costruire questo unicum, diciamo, questa singolarità drammaturgica, che poi è riuscita sia a permetterci di sviluppare il nostro stile, la nostra poetica come compagnia, però è servito anche a me personalmente per negoziare il lutto di mio papà e anche dare nuovo senso, nuova vita a tutta una serie di oggetti che appartenevano a lui e a Allora, me e che poi ritornano appunto in scena. senti, qual è la realtà ternana che racconti, che hai vissuto? La storia procede, come diciamo, per scossoni temporali, nel senso che c'è sicuramente una cronologia, un andamento drammaturgico, però vado ad affrontare diversi aspetti della storia della città. Principalmente, diciamo, l'epoca in cui sono stato anch'io nella città, quindi diciamo tra gli anni 90 e gli anni 2000, però per esempio si vanno a fare anche dei riferimenti alla serrata, per esempio, del 1907, che è stato uno dei primi scioperi generali della storia, insomma, italiana, e quindi si va un po' a fare una storia anche politica e anche culturale, insomma, della città. L'idea è che appunto Terni, città di provincia, che è storicamente legata all'indotto delle acciaierie, negli anni 2000, con l'arrivo di Cinecittà, con Benigni che gira La vita è bella, che poi vince l'Oscar, diciamo, tentava di deviare da questo filone. Mio papà era stato in un certo senso coinvolto perché in quanto responsabile, diciamo, in quanto dipendente comunale, aveva sviluppato i progetti per la disuperficie di Terni che doveva servire appunto per creare un nuovo snodo nella città. Poi purtroppo tutti questi progetti diciamo, di rinnovamento, di apertura culturale sono stati bloccati, sono stati soffocati per tutta una serie di ragioni, fra cui anche quelle, diciamo, politiche. E quindi racconto di come è una realtà di provincia che in fondo rappresenta un po' tutta la nazione, sia stata, diciamo, rimanga endemicamente in bilico, fra, diciamo, l'esigenza del rinnovamento ma la drammatica aderenza rispetto della tradizione, che poi crea un impasse che ancora oggi credo che duri. Ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, noi siamo la compagnia Garafoli Nexus, ci trovate su www.garafolinexus.it, abbiamo pagine Facebook, Twitter e Instagram scrivendo appunto Garafoli Nexus, e lo spettacolo è Giorgio, si svolge da giovedì 7 a domenica 10 marzo presso il Teatro Studio 1 e potrete, insomma, trovarci seguendo il nostro nome o il nome del teatro. L'appuntamento lo hai ricordato tu, un saluto e un ringraziamento all'autore e performer Giuseppe Gatti. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un saluto a tutti, ciao.